Parte di Rock Legends, stiamo sempre ascoltando i brani del disco Global Revolution dei Razzmatazz. Come si chiamava questa canzone? Beh, adesso sfoggiando un inglese veramente perfetto. Macaroni. Our love is stronger than my pain. Dopo l'uscita del disco, quali sono ora le vostre prossime mosse? Quello che facciamo da 4-5 anni ormai, continuare a suonare in giro il più possibile, continuare a divertirci il più possibile e ovviamente cercare di, in tutto questo, di promuovere il prodotto che abbiamo fatto insieme. Bene. La prossima song, Angel. E siamo in chiusura, voi ricordo i contatti per richiedere le vostre Rock Legends preferite o per le vostre segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo anche il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends. Un grazie a Raz Mataz per la partecipazione e un augurio come sempre di un futuro ritorno. A voi la parola per i contatti web e di email per info sul CD ed un calendario di live di prossima programmazione. Allora, se volete il nostro CD dovete andare su Atomic Stuff e lo potete acquistare in line e ordinarlo. Oppure venite ai nostri concerti, che ci fa ancora più piacere, lo acquistate direttamente da noi. Per qualsiasi altra informazione andate su www.razmataz.it e lì trovate le date, i concerti, i link a tutto, direttamente ad Atomic Stuff, anche per avere, per scaricare direttamente da iTunes volendo. Colgo l'occasione per dire una cosa, dobbiamo salutare Martino che questa sera non è in studio. Esattamente. Ciao Martino. Ciao Martino. Martino è il batterista di Razz Mataz, giusto per ricordarlo. Sì, è il Fabbro Ferrari. Il battitore. Ecco, i prossimi live in programma. Noi siamo il 9 giugno al Sabbio Summer Rock a Sabbioneta, il 22 a Fiesse a Brescia e poi prossimamente il 25 siamo allo Stube Lorenzi Wirth qui a San Vito di Negrar e poi i prossimi live vi aggiorneremo sempre tramite il sito, troverete tutte le informazioni. Brano di chiusura di questa puntata, Sweet Lady. Jean-Luc e Razz Mataz si congedano, noi ci risentiamo venerdì prossimo. Ciao!